Mosè riferì ai figli di Israele tutto quello che il Signore gli aveva ordinato. Mosè disse ai capi tribù dei figli di Israele: «Questo è quanto il Signore ha ordinato. Se un uomo fa un voto al Signore o si lega con un giuramento, non violi la sua parola, faccia secondo tutto quello che è uscito dalla sua bocca. Se una donna fa un voto al Signore e si lega nella sua casa paterna, nella sua adolescenza, e se suo padre sente del suo voto e del legame che si è preso e tace con lei, tutti i suoi voti hanno valore e valgono tutti i legami che si è presa. Ma se suo padre glielo proibisse il giorno in cui sente di tutti i suoi voti e dei legami che si è presa, non sono validi, il Signore le perdonerà perché suo padre glielo ha proibito. Se apparterrà a un uomo ed ha su di sé i voti, o si è legata ad una promessa sconsiderata delle proprie labbra, e suo marito sente, ma nel giorno in cui sente tace con lei, i suoi voti hanno valore e validi sono i legami che si è presa. Ma se nel giorno in cui suo marito sente glielo vieta, rompe il proprio voto e la promessa sconsiderata delle proprie labbra a cui è legata, il Signore le perdonerà. Il voto di una vedova o di una ripudiata, tutto quello a cui è legata, ha valore per lei. Se è nella casa di suo marito che ha fatto il voto o si è legata con giuramento, e suo marito sente e tace con lei, non glielo vieta, tutti i suoi voti hanno valore e validi sono tutti i legami che si è presa. Ma se suo marito li rompe nel giorno in cui sente tutto quello che le sue labbra hanno pronunziato, niente è valido dei suoi voti e dei suoi legami. Suo marito li ha rotti e il Signore le perdonerà. Il marito rende valido e il marito rompe ogni voto e ogni giuramento per il quale essa si sia obbligata a mortificarsi. Ma se il marito, giorno dopo giorno, non dice nulla, rende validi tutti i voti e tutti i legami che ha su di sé. Li rende validi perché ha taciuto con lei il giorno in cui l'ha sentito. Ma se li ha rotti dopo che ha sentito, porterà la colpa di lei. Queste sono le prescrizioni che il Signore diede a Mosè riguardo al marito e alla moglie, al padre e alla figlia nell'adolescenza di lei, quando è ancora nella casa paterna.